chissà che marazzucci, beh. Sono più attenti a queste cose. E boh, le consiglia è perfetto, vabbè. Almeno anche da lontano si sente bene. E beh, adesso la radio tua, ti, adesso lo senti meglio. Sì. Io abitualmente parlavo così. Com'è? Adesso sei tu, Antu. E poco fa quasi quasi non ti sentivo, mi stavo preoccupando. Cazzo di aro. Adesso va bene. Tastino girato, io da giù da stasera. Controlla il microfono, no, tutto a posto. Scappa. Ah, ma già, a me è vero che sta spingendo la radio. E a dove sta spingendo adesso? Alla grande sta spingendo, vai ti. Lo stavo amplificando poco fa, perché ce l'avevi chiuso il microfono, adesso amplifica. Ma è venuta a toccare sotto. Ma era toccato, noi l'avevamo toccato stamane, no? Vabbè, già te lo spiego. Va bene, adesso sei tornato tu. Ciao Tatarino, adesso sei bello amplificato, Antu. Ciao Cla. Io Musco, adesso lo senti bene, Antonio? Eia. Ve l'ho detto che per me sembrava come un microfono normale, senza amplificazione. Cioè, l'amplificazione ce l'aveva un pochino, ma non era quella di quella radio di... Adesso sta amplificando, adesso va bene. Adesso sento. Mi pare strano a me. E che sbatte. Cicco, adesso sei tu, Cicco. Oh, scusate, che mi devo allontanare dalla radio qua, che devo fare cosa nell'altra stanza. Se coincide più tardi, Ehi, a te, d'accordo. Vai, Antu. Gappa, adesso si vede che sta sbattendo, sta. C'è il coso chiuso sotto, Cristo. Chissà che mala sorte. Beh, ma pisemo, ma sei tu. C'è vero un tassino girando, vera? Vedi, avevi ragione, cioè qualcosa non andava, anche se loro ti ascoltavano bene. Adesso sei tu, boh, sei non forte o di più. Guarda, mi sa che sei anche più forte di prima. Sì, è più spinta la radio, è più spinta. Allora lui, ti spiego una cosa, io stamattina sono andato a lui e gli ho fatto un lavoretto a quella radio. Però provando io, ho detto apposta, tanto va bene. Poi sono arrivato a casa, ho detto boh, ti do ragione, Lu, perché sei stato molto più attento di me. Però ho detto boh, secondo me non sta spingendo come deve spingere, come dico io. Poi stasera mi hai messo il dubbio tu, io ti ho un po' non ti ho dato molta ragione, perché secondo me stava andando bene. Però cazzo, adesso mi è venuto il dubbio, tanto solleva il microfono, guarda in che posizione ce l'hai, e mi ha detto che era serrando. Cazzo, io non vedo che non pompa, allora aveva ragione Luca. Guarda, adesso esce, no, bene, benissimo, fai un passaggio, non tu vai. Cappa, guarda me, ho tre prova, guarda me come sono. Cazzo, allora sei tu, infatti già te l'ho detto, c'era qualcosina, non dipendeva da me, perché se fosse dipeso da me, il problema è che anche a te lo sentivo male, a Franco, ma cioè, tutte e due uscivano bene, eri tu che era un po', sai, quella modulazione come vi ho spiegato prima, un MB più 4 senza cotone dentro, capito? Adesso è un po' citofonica la modulazione, adesso sei tu, una bomba. Gappa, anda a vedere. Tanto ma stai scendo veramente bene, quel ritocchino. Minchia, adesso sei tu. Ah, mi è venuto il dubbio, perché poco fa ti sei allontanato dal microfono. Ti stavo perdendo. Dico, ma cosa sta succedendo alla radio, Antonio? Cazzo, non avrò fatto danno. Allora ti ho detto, controlla il microfono, tu fammi capire se il microfono sta amplificando o no. E invece se avevi l'amplificazione chiusa. Allora sì, pumpendi. Ma pumpendi, però. Se l'ha serrato, mia madre, io parlo sempre così da questa distanza quando sono cucucando. Vabbè, Antu, è perfetta. Sta pompando, Antu, sta pompando benissimo. Ha ragione Luca, anche leggermente più forte dell'altra modulazione. E io la sento molto più corposa. Cosa dici, Lu? Sì, anche l'altra spingeva, niente da dire, ma questa qua sembra più spinta. Sì, adesso va bene, Antu, lo sai, tu sei gratti, viami sempre di me, quando mi chiedevi i controlli, però se c'è qualcosa che non va io me ne accorgo, è più forte di me. che magari tu da quella radio lì non te ne accorgi più di tanto. Vabbè, stiamo parlando di un baracchino o di una radio professionale, capito? Però se tu venivi qua lo sentivi così. Claudio. E a te. Eia, ciao Luca, mi hai mandato un messaggio. E adesso vado a vederlo. Sì, lui, no, non è che ti ho voluto contraddire, però io, lui siccome si è, l'ho detto avvicinati, ho visto che avvicinandosi la modulazione è cambiato, perché la timbrica era quella, però poi ascoltandolo bene durante la serata, mi sono accorto che non stavo amplificando, anche Tino l'ha detto, non è che ti ho contraddito, ma ne sono accorto anch'io che non stavo andando al 100%, però non stavo uscendo male, caro Dumaito, sta uscendo male, non è la radio sua, no, la radio sua è la sua, non sta uscendo male, non è amplificata molto, l'ho detto anche Antonio, capito? Però io non sapevo che lui avesse il microfono chiuso, se no me ne sarei accorto subito. Cioè è una bellissima radio, Antonio, veramente molto, molto, molto bella. Un attimino che vado a leggere un messaggio. Ehi, Alfa, leggiti il mio, che ti ho ricordato una cosa, ti ho ricordato. Eia, adesso mi guardo anche il tuo. Sicuramente sono io il coglione, Anto, perdonami. Perché stamattina io ho sollevato il tuo microfono, che volevo vedere come ce l'avevi. Ho spostato la levetta per dare una pulita e sicuramente non l'ho messo a posto. Ma allora dipendeva dal tastiere del microfono. No, era girato, era. Ah, ok, da. Vabbè, io, Antonio, se ci sei, io arrivo alle 8:30 a casa. Dai, ci sentiamo, riprendo da casa. Va bene. È vero. Comunque vai benissimo, È vero, Vai benissimo, tu adesso, perfetta. Sei tornato tu come di prima, da. Papà. Eia, Daniele, buonasera. Daniele, era Tino, era. Ah, è Maria Daniele. No, sono entrato per mandare un messaggio a Claudio, per fare una cosa. Ah, è capo. Uia. A dopo, ciao. Cosa? Ho detto a dopo, ciao. Ciao, poi mi è arrivato un messaggio. Hola, chicos. Eccomi, che stavo guardando la... Minchia, ha dimagrito un bel bastianino, cazzo vai la faccia più male della gioia, tu. Ha dimagrito sì, è vero. Quello che ha perso l'ho preso io. E sugar, giovanotto è 20 anni sembra, salutamelo, bello un abbraccio grande, a te e a tua madre. Sarà fatto, adesso ne sono andati, dai. Sì, siamo messi lì all'opera e abbiamo operato. Si può fare. Sempre il prezzo dell'anno scorso? Ma questa non lo so se la l'opera, perché ne ha fatto poca e adesso vediamo. Due giobitti giusto per assaggiare. Aspetta. Quando scende umidità, appena, ci avevo 0,8, 0,80, manco 1, quando inizia a scendere l'umidità, a 1 salgono, a 1, invece prima manco ci muovete. No, io sinceramente parlando l'accordo direttamente basta, poi mi cambio un accordo, non so guardare la situazione perché c'è un'altra faccia. Ho visto. Anto, contento ci va, visto l'operazione Drago è riuscita, la mazza di rivali a Claudio Sparviero, che sono io che ho toccato il pulsantino stamattina e mi sono dimenticato di metterlo a posto. Vabbè, può succedere, dai. Stazionare come ma così muove appena. Allora, Alessandro, facciamo un ritocchino a vedere come si comporta adesso che è in amplificazione. Allora, mi hai detto che ce l'hai a 3 ce l'hai proprio il Mickey Gin. Un pelino, ma non a 4, tra il 3 e il 4, 3 e mezzo, riesci a metterlo? Aspetta, buggico in occhi. Guarda a vedere com'è. Se l'hai mosso appena appena. Ti metti gli occhiali, devi abbassarti e non è uno slider, è un potenziometro. C'è la misura, no? lo metti, aspetta, lo metti tra il 3 e il 4 e mezzo, 3 e mezzo, a vedere se, se pompa di più e parli. Ma l'ho messo a 4, l'ho messo, com'è? Che c'è un cazzo in radio, vai da Dio invece pompa. Ma secondo me è anche troppo forte. Claudio, Claudio. Cosa, fra? Niente, dai, avevo mollato. Non ho capito, no, fra. Ho detto che aveva mollato, ti ho detto, lo faccio Antonio. No, Antonio, passi, ma lo sai, ho già fatto il tagiro, ho passato a Antonello Bonpugno, è viraggio a 200 metri. E allora è grave la cosa. Ma tu c'è un segnalone qua, fra, un segnalone. Ma anche a casa sua, tu arrivi più forte di casa mia. Cappa, vabbè, dipende in quale zona è. Lui è al centro storico, ma arrivi fortissimo, gli arrivi Santiago 9. A me Santiago 9 non mi arrivi 8. Cappa, va bene, va bene. Se arrivo a Platea va bene. Vabbè, conoscendo il nostro danno potenza, anche. Però, con 20 watt dovrebbe uscire, deve arrivare. No, arrivi, arrivi, non ti puoi. Senti Antonio se la modulazione ti piace, vai Antonio. Cappa, guarda a vedere com'è adesso. Sì, sì, sì, è bella la modulazione, caspita. No, io ti stavo ascoltando, ti stavo facendo un aggiornamento al telefonino, stavo facendo e vi stavo ascoltando. Qua sei in 9 da Sorcio, Santiago 9. Adesso da minimo. Cappa, no, già mi arrivi. Pure Buccio d'Orra già mi arrivi bene, per problema. La tassa libera era proprio dentro di Claudio, da Buccio d'Orra, Marvia 9, 9.5, fortissimo proprio. Bella radio c'è, Antucas, veramente bella radio, forte adesso, A 4 l'hai messo? No, l'ho abbassato un pochettino, se no era troppo voce. Tu lascialo tra il 3 e il 4, 3 e mezzo, tu hai, tra 4 è troppo alta, in mezzo, hai visto che c'è la il segno, lo metti in mezzo, 3 e mezzo, va benissimo. Il processore ce l'ha inserito, il microfono è a posto, cazzo mi ha radio, adesso sì che sei tu. Sì, sì, no, l'ho lasciata così. L'ho messa esattamente così, tanto alza di più non serve. No, va bene, sei fortissimo, vero fra? Sì, no, va benissimo va. Va bene sì, perché poi lui ogni tanto scherreggia forte, capito? Sia che si sente poi lo viago di brava. No, io ce l'ho sempre sotto la ciccia, no? Non ha mai toccato lei. Non tocchese, non tocchese. Ui, ciao Tino. Vabbè, fra, non tocchese nulla. Non tocco nulla. Casi no, casi no, che c'è un casino. C'è un casino qua a casa, faccio così, sì, vai. Io Claudio. Claudio ti sta chiamando Franco Lassorso. Ehi, hai già lo sentito Francolino Lassorso, però mi sono più pulsato un minuto. Mi arriverà un basso di segnale, ma di radio penso che ti arrivi bene. Questo è un basso di segnale. Io non ti vedo, fra, capito? Devi aspettare quest'estate per fare prove con me. Perché devo piazzare la 5 bande e tirare su questa. E insomma, il palco antenne, che sono tutte verticali, devo metterle molto più alte. E quindi sicuramente ci sentiremo meglio. Però già sta arrivando segnale 8, radio super 5. Cappa, guarda io Sasso lo vedo quasi tutto, lo vedo da qua, da sul tetto, Ma io non ti vedo a te, mentre invece da Carbonati ti vedevo, capito? Ti vedevo, infatti arrivavi 9, arrivavi segnale 9, ti arrivavo anche più forte io. Tieni conto che io sto andando col Galaxy Saturn Echo adesso, alla massima potenza, quindi non so quanto ti sto arrivando. 8 modulati stai arrivando. Vedi, segnale combacia, va bene. Cappa. Vabbè, e anche Antonio sta arrivando bene qua. Cappa, sarà un Santiago 9 forse. No, arrivi come Claudio, 8. Più o meno, dai, già andava. Stavolta di nevaria, più o meno andava. Ma sai dove sono io e dove sei tu, Antonio? Ma stai scherzando? Ma c'è un abisso, io sono a 400 metri di altezza, mi. Sì, cazzo, a 150 metri, sì, in città, mi. In città è una zona anche bassa, perché sia il centro storico. Mica è, guarda, veramente allucinante. Cazzo, se lì metti una mantova, un'antenna come questa, la Smart Tech, che c'ha 7 ottavi, cazzo, da lì rompi il culo a tutti i tumi. Già, lo so. Ma se l'avrei messa anche più in alto qua, tutto dal muro, avrei fatto qualcosa di meglio pure, no? Perché attaccata al condizionatore. Tu se d'estate lo vuoi fare quel lavoro, non c'è problema. Mettiamo un tubo dei miei, ben messo, due staffette attaccate al muro e ce la siamo un paio di metri. Da lì sono dolori, ti sto dicendo che esci veramente molto molto forte. Io sono lontano da te, mi. Cazzo, arrivi 9 più 20 e quando attacchi pochi quasi il 3 del 30, tu, mica non è una cosa da buccia di giocami. Già lo so, già. Attualmente quando si fa la tu, nella zona mia con la macchina, in via Sorso, l'ago non si muoveva più. Aspetta, se abitavo il Gappascoli qua, amico, la Vilo Smith, ma io ti ripeto, arrivi fortissimo qua. Poi adesso, c'è una radio spettacolare, veramente molto molto bella. È colpa mia, ho toccato il microfono stamattina, stavamo facendo quel lavoretto, ti ho toccato il microfono e l'ho messo a posto. Vabbè, pazienza, l'importante sia andato tutto bene, dai. Arrivi molto forte di radio adesso. L'hai visto anche Luca, te l'ha detto. Cosa fai sentire a me, sto dico io. Oi, buongiorno, buonasera. Ciao, va bene. Per una volta ha ragione che ci uova di Sassari. Buonasera a tutti, E di nuovo auguroni a tutti. E tante cosce calde. Ciao Gino, buonasera, ben ascoltato. Io sto andando col baracchino, quindi se mi senti più basso non è un problema. Però la radio non ce n'è sempre per nessuno. Vai Sosso. Ehi K, ciao Eugenio, ben ascoltato, è un lui anche a te. Niente, a me la fermo un pallino di quest'estate di metterci altri 6 metri sopra questo palo, a farla a 12. Poi mi sono pentito e non l'ho fatto più, però c'è un palo sempre pronto a metterlo dentro su due innocenti. E così arrivi una volta a Sassari, a 3 metri gradi. Mamma mia, ragazzi, 9:20 mi arrivavi a Carbonazzi, 9:20. Arrivavi molto più forte di Francesco Sacramento, molto più forte, eravate più forti di tutti. Qua io e Pietro dormivamo tutto, e poi pazienza. Va bene ragazzi, io vi saluto e ci ascoltiamo, vi stiamo chiamando a mangiare. Ciao Antonio, ciao Claudio, ciao Tino e ciao anche a te Eugenio. Riprendi Eugenio e fai girare. Ciao, buona cena. Io non voglio più sentire di mangiare, di bere, basta. Sono grosso ragazzi. Non sono più a niente. In 3 giorni ho messo 17 kg. Mi mangiato, non ce l'ho. Ciao Franco, ciao. Ciao Eugenio, ricciava. Ciao sì, hai visto come esco bene dal camper? Sentito? Sì. Ti ho accompagnato fino a produttore. No, sono veramente contento per quell'impiantuccio che ho in camper. Ti ho detto, mandami la posizione di Rovieri che ci voglio fare un salto, non so quando, quindi una volta che ce l'ho poi ci passo. Adesso ti mando la posizione. È molto semplice, guarda. Fa la 4 corsie di Sassari Olbia, la prima entrata per Azzara. La prima entrata per Azzara, invece di girare per Azzara, giri a sinistra, tu vai a destra, un chilometro più avanti, sulla sinistra c'è una strada mezzo asfaltata, con un cartello bianco, entro lì e si è arrivato. Sì, però il fatto è, mi ricordare però, che ne so, fra un mese. E allora te la mando a posizione, tranquillo. Andare. Ehi, va bene. Mi ascolti anche col baracchino, oggi? Certo. Guarda, tu puoi avere anche il segnale 0, ma la radio si è fighissima. No, e poi il segnale 6-8. Ehi, va bene, ha voglia. Tornecco. Microfono Turner più 3. La modulazione è sempre quella, non cambia niente. Vai Antonio, riprendi Antonio, facci sognare. Ma Antonio se calma gli addomi. Antonio, lascia le Sara. Buonasera a tutti! Ciao Sara! Sai che fugare? No, è Ghito, che Ghito. Accendi il zucchero e accende la stufa. Ah, accende la stufa e è andato Antonio. Ah, ciao Sara, buonasera, vi sentite auguroni. Eccomi qua, sono sceso giù a scendere, un po' la stufa, mi è freddo in occhi. Vabbè, adesso già scalda subito. Ehi, ancora c'hai volati, pronto? Come hai visto attaccare la bombola? No, non ci ho fatto caso, tu, non ci ho fatto caso, sono salito direttamente su nel soppalco, no, non ci ho fatto caso, la verità. Bella casetta comunque, mi piace, molto bellina. Poi questo soppalco è molto bello, la scala in legno a salire su, molto bella. Ciao, perciò io ti mando una foto. È una stufa un po' particolare, praticamente è attaccata sopra la bombola, capito? E si avvita con... c'è la flappa, si attacca proprio sopra, sotto c'è il regolatore con il coso attaccato, è un po' particolare. Vabbè, stiamo conoscendo le cose, ciao, vabbè. Mi è importante il servito, addio, di nuovo ci sei. Allora, quello che ti ho detto ieri non ti è servito a niente. Perché vieni a disturbare, cazzo? Non capire, dammi una motivazione. Ah, che è guaccio, Ma lo passo io. Sì, che lo passi. Porca miseria, vabbè. E quindi non mi senti? Sì che ti sento. Ah, pensavo. Cappa, un basso in radio, chi sei? Masso? È un po' bassino. Cappa, è già lo credo che rubassi già, lo schiacci pure. Se sono basso in radio ti posso accontentare, ma non so se poi do fastidio. Ma che non mi dai fastidio, vai. Azza. Così ha migliorato qualcosa? E la voglia, io ma non ho niente, proprio il portantista lo fai a pezzi. Sì, ma Anto, io sono mezz'ora parlando con te, tu ancora non sai chi sono. Non sei Tino. Se mi dici chi sei. No, già te lo riconosco troppo, perché c'è una modulazione bassa, non capivo. Claudio, la radio è troppo bassa, è così. No, va bene, lascia la storia, già va bene, l'importante ci ascoltiamo. Vai, oggi, dai, io ho un altro passaggio e poi me ne vado a papare. Sì, ragazzi, vai. Mi ha fatto piacere passare il cioccolato. Ciao, che me ne vuoi andare. Ciao a tutti. Non aiuta niente a casa, no, non so capire niente, no, non ciao. Ciao, Luigi, ciao. La mettono quando parli tu, però non c'è problema, siamo riusciti ad ascoltarti lo stesso. Ciao, Luigi, tanti auguri ancora e niente, buona carica, buon tutto. Ce la riascoltiamo, vai Claudio. Cosa ti non ho capito? Sono via Eugenio. Ah, ciao Giulio, alla prossima, ci ascoltiamo, vai Anto. Cappa, ciao G. Ce la risentiamo alle prossime. Siamo riusciti a capirti lo stesso, vai. Via, ciao sì. Sì, mandano, dai. Così almeno ce l'ho impostata. Ciao G. Guarda, stiamo aumentando la radio, cambia qualcosa. Ho aumentato appena. Ma a me mi ascoltate o devo aumentare? Aumenta. Se aumenti un pelino è a posto. Claudio, la radio come fa adesso? Va bene, devo aumentare, vediamo un pochino in diretta, così vediamo di dare tutta la potenza a questa radio. Più di questo non posso andare, va bene? Ma è vicino a me, non ti preoccupare. Già va bene, guarda un po', è aumentata la radio? Sì, è aumentata. No, io più di così non posso andare. Guarda, Ah, facendo il lineare. Vai, avvicina a me allora. Ah, tu, non c'è bisogno, non ti fa niente. Magari disturba me perché è vicino a voi, ma non ti fa niente. Affutti dinni, lascia stare. Aspetta che parlo di un 500 adesso, aspetta, ti via, già c'è, va. No, non c'è bisogno a te, la crepi di brutto, lascia perdere, già va bene. Mica mi fermo con la pedivella anche. Ah, è vero, anch'io c'ho quella pedivella che... Tipo con la bicicletta, la linea non ce l'hai presente, più pedalo più va, così è. Allora, già andrò, vai, a futti di me. Ti lascio lì abbasso, Oh. Ah, sta di nevaria, andiamo bene così, lascia stare. Ammazzate tutti qua. Sì, però voglio sapere una cosa, Cla. Adesso ho alzato leggermente la radio. Come i tuni come sono? Perché questo è il più 5. Beh, dai, ti. Se non me lo dici, sembra il campo, di la gira di tu. No, questo è un baracchino piccolino. C'è l'altro grande che lo sta assistendo. Però con ZB, capito? Niente di particolare. Bene, va tapponato, bene, bella modulazione e bello todos. Vai a tu, ciao Tartalino. E la crepate tutti da qua. Mette questo B, capito? Vabbè, voglio che ti dica, io gliel'ho spiegato, gliel'ho detto in mille maniere di fare la bravo, che non c'è bisogno di disturbare nessuno, invece lui continua, pazienza. Se questo è il suo hobby, prendiamolo così. Già va bene, allora, adesso lasciamo la potenza alta, voglio che ti dica, già avrà passato. Ma c'è qualcuno che sta chiamando? Tu, se l'hai sentito tu, io non tengo nulla a farla entrare. Avanti! Bene, bene, chi è? Sono un bambino, sto usando la radio di mio padre. Cappa, salutore Andrea. Grazie. No, io lo sento basso basso, Andrea. Comunque, salutore Andrea. Cappa, dice che sta usando la radio del padre. Qua mi arriva a nome. Diciamo che non lo ascolto, è proprio basso basso. No, qua no, non arriva per niente. Chi Andrea è a tu? Non lo so, è un giovane. Dice che stava usando la radio del padre, ci salutava. Se mi ascolta, io la saluto. Però no, non arriva qua. Cappa, ti salutano tutti. Ok, Andrea? E tu, ma come non lo sento manco io? Io l'ho sentito per due passaggi, Santiago Novo e basta, mi ha salutato e boh. Adesso non sta più parlando. Ah, andava, era. No, io non lo ascolto, non lo so. Con la bomba sa radio, Antonio, è una bomba, cazzo. Ah, vero? Come mi senti lì a casa tua? Ma fai tu parla con mulo, va, con come sei tu? Vai, drogato. Ma io sono d'automa e se mi vuole con una portante di attacco lineare. Ah, ce n'è bisogno tu, cazzo mi che sei 9.20 non che da giurito, ma la portante Santiago Novi, ma le davvini o no? Non ti fa niente, poi con la radio che c'hai, cazzo, alu, avassi che Antonio. E io non riguardo, cazzo si viene a giudizio facendo i luci. Te l'ho detto, cazzo, c'era qualcosa che non andava, poi magari sai cosa succede, lo stavo spiegando a Antonio. Tu sicuramente Franco e Tino avete una radio superiore alla mia, magari riuscivano ad ascoltarlo bene. Però non so, forse non si è accorto Carlo dell'accorgimento, vabbè, magari Carlo ha poca esperienza, tu lo sai che gli chiedi sempre a me i controlli, ma c'era qualcosa comunque, sembrava come un microfono da 13, zimi. Oddio, ma è colpa mia, perché stamattina, scomoda da lui, l'ho toccato io quel microfono. Ho fatto avanti e indietro, avanti e indietro per farle un po' di pulizia e poi l'ho lasciato spento, capito? È colpa mia, adesso sì, se ne ha radio che va, meglio di prima. E confermo, adesso è bellissima, bella radio. Vai Cicco! Vai per il re! Cazzo, attacca la tua radio, ma non c'è bisogno, tu, ma cosa devi attaccare? Ma vai, gli dice una bomba, non c'è problema. Cazzo, lo crepevate tutti qua, nei miei confronti lo crepevate tutti, senti Vattino, a Antonio, a Claudio, tutti. Luca, voi non se ne va a vedere. Ma allora non parli dalle parti mie, perché qua andava di turbo. Non c'è bisogno che dica nulla, non faccio nome e cognome. Vabbè, è dalle mie parti, Già lo sappiamo che è sempre da lì, non esattamente dalle tue parti, è un pochino più inoltrato della tua parte, però. Inoltrato la mia parte o per sua parte dolce? Già te lo spiego diversamente. Io non lo so, solo l'ho detto. No, io non lo so, a me me l'hanno detto, quindi te lo posso dire di persona, anche chi me l'ha detto, perché l'ha trovato. Però io non mi esprimo. Il segnale qua è 9. Però nelle parti basse del monte è molto forte, capito? No, pigridillo. Se ti sto dicendo che qua è la più forte di qualcuno che non faccio lumi, quindi è più vicino a me. Si conferma, è molto più vicino a te che a me, capito? Tutto qua. Va bene. A te devo andare a girare il forno. Ho detto Luca, come ti sembra questo Saturnecco? Una bomba. La solita mano, non si rimusica. Va bene, quindi anche come segnale radio. Eia. Ottimo per la truppa. Un attimino arrivo subito. Gappa. Infatti che ti gosi, non è diciamo di capo. Ma io dico, ma cosa fammi da tranquillo? Invece no. Se vuoi a casa a bisticciare con tutti, offendere a tutti, a fare la guerra a tutti, ambinisci da me, Dubai. Ma senza fare nome, ha avuto un disturbo da poco. Mi barici. Subito disturbo via nel naddu. Cosa? Dici che un disturbo via nel naddu. Che pazza. È la verità, sì. La verità. Lo so. Salutato mai a Carletto. No, non era con me, ma l'avrà letto sicuramente. Ieri siamo usciti, siamo andati. Cioè, andati a Larghi la faccio un giro, sì. Non c'è una pizzeria, ma c'è una pizza a pranzo, no? Ci siamo buciati in qualche cosa fuori. Già che era freddo fuori, no? Perché c'erano i tavolini con le stufe attaccate al coso, no? Quel coso che ti scaldano. All'ombrellone, dove avevamo non c'era niente, e poi c'era freddo. Qui dovevi aspettare che ti veniva a prendere la comanda, cioè, a prendere la comanda, Era una puta paura, ci trovo un cancarene, noi ce l'abbiamo. Siamo andati da un'altra parte, siamo entrati in questo ristorante, e io lì per dire, tu mi qua c'è posto, pensavo che facevano anche la pizza. Comunque, abbiamo preso la cotoletta con le patatine, ma non assai mio, una cosa da niente. E poi, 4 bottigliette, 5 bottigliette d'acqua. 3 ginseng, un caffè, 70 euro. Caro mio. Oh raga, dai io vi saluto, aspetta che abbasso la potenza. Vi saluto e vado a cenare. Se ci siete a dopo, altrimenti un abbraccio a tutti, ok? Ciao, Anto, non tocca se lascia tutto così perché sei una favola. Ciao! Anche io. Sono stanco. Ciao a tutti. Ciao Natali, ce la risentiamo. Ciao Natali, ciao anche Antonio, Luca, a tutti. Se ci siete troppo, ok, ciao. Veglia, ciao. Ciao cra. Lumi torra. Avanti. Sì, Andrea, 10. Avanti Andrea. Pronto? Come ti Non lo so se ti sentono i miei amici. Le sentite Andrea? No, non lo sento io, stavo lo senti tu. Te lo giuro, mi arriva 7-8. No. Scusa. No, io ho disturbi e non riesco a toglierlo fuori. Capa, ma stai parlando con la radio di tuo padre, Andrea? Roger. Avanti. Roger, sto parlando con la radio di... Schiacciamo bene quella cosa. Cosa hai detto? Di schiacciare bene il pulsante. Quale pulsante? Quello che devi parlare. Sì, lo sto premendo infatti. Eia, loro non ti sentono, sei con la radio piccola. Sì, ho la radio piccola. Sì, io lo sento, piano passo passo. Andrea, mi senti? La radio piccola. Mi senti, Andrea? Non mi senti. Lo senti a Luca? No, mi dispiace, non senti nessuno, parte te. Ah, ha detto che non sente nessuno, ha detto. Comunque, tu come ti chiami? Io, Antonio mi chiamo. Appunto, lo sapevo che si chiamava Antonio. Ragazzi, dove stai mettendo? Da Sassari. Grande. Cappa, vabbè. Viva i sassaresi. Cappa, vai. Sicuramente è qualcuno con qualche portatile da questa zona qua, perché a me mi arriva più di tutti. E qua mi arriva Santiago 1, è bassissimo, non è che lo sento bene. Aspetta, qua c'entra il cane qua, dai. Sì, ci sei ancora? Ragazzi ci sta. Avanti, ma stai usando un portatile con le batterie? No, non sto usando un portatile con le batterie. Ah, e da che zona sei? Perché qua tu mi arrivi bene, oro. Ma sei zona del corso, dove sei? Non ti ho sentito, puoi ripetere? Ho detto, dove sei qua, zona del corso, dove sei? Ah, dalle parti via Porcellana, è per quello che mi arrivi un po', se no non mi è arrivato. Adesso poco fa ti ho perso un po' di segnale. Ok, cosa mangi tu a cena? Io ho già mangiato. E cosa hai mangiato? Un po' di bumati. Yum. Con la mozzarella. Antonio. Se vuoi entrare domani già siamo qua, ok? Ciao. Ciao. Eccomi qua. Ehi, Alu. Che ragazzi. Quello qua c'era, dice che dalle parti via Porcellana era. Ah, ecco. È quello che io sentivo forte. Gappa. Ah, un due che radio, sì, me. Sì, lo sentivo Santiago 1. No, qua è arrivato anche a picchi di 9. No, qua no. Ah, e qua rimane, ma non dici da Capodanno dove l'ha fatto, non ci ho capito niente. Da tuo fratello? No, siamo andati ad Alghero, siamo andati. Siamo andati a venire anche mio fratello l'altro, il più grande. E poi non ci è venuto. E siamo usciti con la macchina di mio fratello. Con Carlo? Eia. E non è giunto? No, Giovanni non è venuto, Carlo sì. Siamo usciti con la macchina di Carlo. Ah, siete scesi tutti quanti con Silvana. Io, Silvana, Carletto e Marina. Che di fare macciapalla, Pusodorra? Che gliel'avevo detto. Ehi, già ci organizziamo un giorno, anzi, dai. Andiamo a trovare a tuo fratello e a Silvana. Aspetta, mi sono andato una fame, sta al ghetto, per carità. Mi rompo il mobile. La cotoletta un po' di patato frisso. Ma fai da dove siete andate? È un ristorante, perché prima famo lì una pizzeria. Cazzo, una margherita 7 euro. Cari sono. Cos'è, non si assomigliava nemmeno a quella. A quella che hanno fatto noi a Sassari. Che cosa? La pizza. No, la pizza non l'abbiamo mangiato, ho piatto composto, ma a modo di dire. Composto è composto da con la cotoletta, l'insalata, le patate, ma ci sono la cotoletta e patatine pure. E poi vi hanno spennato, poi vi hanno spennato bene, così. Ho piatto 12 euro, mi è caro, mi. Sono venuto quasi 30. Così è, però... deve essere per roba, ma se così. Abbiamo spettato quasi 70 euro in 4. Non ho mangiato nulla. Era stato meglio andare in opera che passe. No, ma io volevo passare andare dal ghetto, capito? Quello. Volevo passare andare dal ghetto. E così è stato. E vabbè, comunque. E lui è fatto, purtroppo. E Gussi, infatti Maria ha detto, io andiamo voluto, l'abbiamo detto una pizza l'altra volta, abbiamo speso poco. E infatti non gli ho dato retta, su com'è. E sicuramente qualche soldino l'avevamo risparmiato. Chissà, minimo una bottiglietta d'acqua, 1,50 la bottiglietta d'acqua. Ma già lo so già. Se la fate impagare. Se la fate impagare, sì, questa la paga 20 centesimi, che sta vendendo 1,50. Guadagno è no triplo, no quadruplo. Non lo so, lo so. Se vuoi fatto. Purtroppo. Ma già non so come funziona quel posto. No, funziona così. Allora, scommetti che hai speso meno tu, ma sono andati di là. Molto di meno. E poi vabbè, abbiamo preso anche 3 ginseng e un caffè per me. 68 euro. Comunque genere i prezzi sono quelli, un po'. Perché qua lo paghi 10 euro un piatto composto. Ma tu, un piatto composto uno mangia. Uno con piatto composto mangia, capito? Non è che non mangia. Ma io non ho mangiato nulla, giuro, nulla. Infatti è tutta roba frisa che non li posso mangiare. Ma da bene, mi metto un'altra in mangia. Sicuramente avremmo su cagatine. Ma dì, lasciate mandare la foto, aspetta. Poi le foto, aspetta la mano, aspetta. Così vedi cosa c'era. Se su che. Poi te l'ho mandata giù. Ragazzo, poca roba proprio. Mi devi dire... Vabbè, 4 paninetti di pane da 2 di fa, e 2 di fa, asciutto che cosa amara. Comunque abbiamo speso fuori 70 euro. Così si fanno i soldi. Ma già non si butti più. Non si butti più, no. Ma te lo stava pagando Carletto, ci tomati il bagno, devi pagare tu. La metà, ti ho dato 35 euro, la metà. È giusto che sia così, tu devi pagare tu. Comunque ci voleva più roba, ci voleva, cioè, un po' di insalata, un po' di altra roba, cioè di solito si parte così. Ah, se non le sbaglio, così uguale, però con i calamari 15 euro, mangiava ancora di manco, mangiavi. Di cui ce l'hai fatti. Cioè, ti pari. Oia, per carità, anche con i pari di là, così, anche un piano. Con i quali di una bussi dall'Asti, non funziona la bussi. E il motore ce la mettiamo, ormai paghiamo una pizza da 4 euro qua, 5 euro, qui 7 euro, a un mondiale di blu del 10 euro, secondo dove fare. Vai, vai, via, la carità. Ma questi magari... Ah, usiamo di la tanto qua, insomma, purtroppo la padura non nasce. Eppure Alghero sono velenosi all'Alghero. Me. C'è una volta alla marina, una volta, la mia normale, con quello del negozio mio. Guarda, puro chiffo, lo tiene di birra 20 euro. Eia! Due panini da niente, proprio due panini da niente, poi i panini fatti in casa, per presenti i tiboni cazzati in mezzo, usci. Due lattine di birra 20 euro. Madriga. Ci facciamo a pagare. Dei panini 6 euro l'uno, e le lattine 4 euro l'una. Ma non si, ma per carità, che gente. Infatti già, abbiamo fatto la grotta. Si fanno pagare lì, eseguirlo. Infatti volevamo scendere dopo pranzo. Così, facciamo una capoccaccia, bello, ci siamo mandato. Ci vado qua al posto. Sì. Vabbè, poi siamo scesi con la macchina del carretto e consuma niente, consuma poco, è diesel la sua. Ma appunto. Quello che ho detto sempre, che è meglio una macchina a gasolio. Sì, secondo me vai sì. Ciao, qua c'è molto da gasolio, pompano. Quella lì è 1400, la mia cammina. L'hai provata? Cosa? L'hai provata? No, no, no, sta guidando, non ha riguardo di guida. Ciao, quando entra il turbo è micidiale. Sembra che l'ultima stanca a guidare, mi ha detto. Stanca. Vabbè, se uno la prima volta, si gode. Come io, le prime volte guidavo la macchina, sembra una cosa più bella, va. Una goduria, ma poi ti ripassa la gana. Già lo so. Adesso se tu prendi la patente, sai che le prime volte che guidi in strada per i fatti tuoi di viaggi, allora poi ti ripassa la gana, poi quando sei in mezzo al traffico, è una noia. Lo so. Poi ti faccio un esempio, se fai viaggi lunghi, lo stesso ti... mamma mia. Mi sta come, però bello, mi sta come. Lo so, però ci sono posti belli che io ho visitato, anche nella zona, di Cagliari, sono andato a vedere dove scende l'acqua a San Giorgio, era lì qua io, un anno fa. Non so ci sono posti belli, abbiamo posti belli in Sardegna, voglia. A Papuca c'è pure mai andato, bello, circa ci è mai andato? Mai. Bellissimo tu, bello, bello veramente va. Ci sono posti belli in Sardegna. Abbastanza. Domani al lavoro tu. Domani a rompermi le balle al lavoro. Tu cosa hai fatto a Capodanno? E no, Ghiro. Dove vuoi andare? Chi dovrebbe durata a Serrano? Ah, da Mirko. Come si dice? E allora siamo andati via, poi verso le 9 mi sono alzato, ho fatto colazione, siamo preparati, siamo andati a farci un giro. E c'è appunto la colonna, l'ho provato a chiudere, sì. No, un'altra volta! Eia! È un biliardo di mira, vale. Perché ce l'hanno chiuso? Sicuramente va via la bicioraia. Altri 5 giorni di chiusura, più verbale. Non so cosa dire. Comunque hanno preso di mira, sì. Quante volte gliel'hanno detto, anche i carabinieri, adesso mi aiuti, gliel'hanno detto. Sì, va bene, va bene. Poi tu li prendi per il culo e poi loro ti gremmano, Ma uno deve lavorare per una persona seria, non così. La picciolaia non andava verso. Non andava, no. Perché picciolaia, cazzo, Mariani, parliamo che era mia all'asilo. E allora? E gli abbiamo detto, contatti. Cosa cazzo si prende? Mica no che ti sarà indotto, mica no che ti sarà indotto, mi è fatto Fatta ce l'ha fatta a Favvilo. Ho riservato altri 5 giorni, vai! L'altro giorno gli hanno fatto anche inquinamento acustico. Già ne ha poco articoli, io secondo me non me la fate più a Brino. C'è un milione di mira e futito, per usare il tutto. Ma stare tranquillo, buttaci fuori tutta questa merda. Ma pure la mamma vedo un capo che fa. Farina, capito, farina. Chi si prende un bene di naipe? Non so quanto è noi, no? So che ha bisticciato anche Collino per questa storia. Chi tu? No, lei. La mamma. Perché lui lo sapeva quasi che dovevano fare il controllo, perché se ne è avvisato. Andando in torrente, e dove l'ha detto? Fai uscire tutti, così si rivora, perché quella cosa è grave, ti faccio i cazzi suoi, ha detto. È successo un battibecco e da lì si sono scornati un po'. Sì, ma tu non c'è più andato? Sì che sono passato. Sono passato e subito so che l'uno non c'è buono, non ha le palle. La giubbato buoni la mascherina a tutti, no, che ne lo goda, io. Mi che torno là e dovrò da fare, cazzo di buriane. Sì, ma mi sa che anche tu, se continuiamo così. Anzi, guarda, ti dico che siamo stati anche fortunati, dai. almeno per Capodanno, guarda, è Capodanno, non sono esarrato, manco male. Sennò era un casino, era. Era un casino. Stiamo sicurando un microfono. C'è un po' di. Un po' di polvere. Ma la chiave una volta se l'avevo pulita. Un po' di polvere c'è. Cioè. Andiamo bene, andiamo. Che snodo. Ma forse è meglio che sia successo anche così in me. Prima o poi, quando uno si comporta bene, succedono queste cose. Ma è normale, tu. Cioè, se... fai tale che abici un'aia. Non si fa. Noi abbiamo detto 100 volte. Meglio per loro. No, capo che ti dica, io no, non so che dirti, che c'è il rompimento di scatole, perché poi si afferrano tutti i negasini. Io so che ha ricevuto anche, solo che lui non le dice tutte le cose, minacce dai genitori pure, perché hanno visto i figli lì dentro, che addentrava la casa embriaghi. Io so che io so qualcosa, mi hanno accennato qualcosa ieri. Aspetta un attimo, Anto. Eia. Eccomi qua, cappagatta. Io so che addirittura li volevano mettere un po' a testa per pagarli la contravvenzione. Qualche genitore io so che era incattato un netto, c'è un po' di casini bisogna. Ma che c'è qua perché non è tornato a casa embriaco lo giuro. La cosa è molto triste. Anto, un casino, è un casino. Aspetta, ecco qua. Grappa. La prendendi, la ridò. La ventola è entrata, funziona. Adesso vai bene, Anto. Alla grande. Grappa, quando scaldo. Scalda, poco fa è entrata la ventola, era raffreddato. Abbiamo risolto almeno anche il problema. Tutto va un tantino vigliaco, però te li metti 60 a spinge. Ma sì, cazzo, ma sì tu. Gappa. Oh, yeah. Asco, io mi sento a letto, faccio un sonno. Tranquillo, anche io non ho sonno, ma mi guardo la TV. Andiamo, dai, ci sentiamo domani, Anto, ok? Buonanotte, saluto a tutti, ciao. Ciao, buonanotte a tutti, ciao.